Rampi. Sì, allora è stata fatta esplodere una bomba ad opera del terrorismo nero e il periodo era gli anni di piombo, comunque c'era il periodo anche in cui c'erano le brigate rosse, comunque terrorismo politico. E un'altra cosa, volevamo chiederti se sai quali altri attentati ci sono stati nel periodo, se ti ricordi qualcosa. In questo periodo? In quel periodo lì, anni 60-70. Beh, c'era stata la strage di Bologna, però mi sembra che era inizio degli anni 80. Poi vabbè, il rapimento, l'uccisione di Aldo Moro. Poi diventa critica. Questo non lo so, però vabbè, so che era, la matrice era comunque il terrorismo nero, nel senso le forze di estrema destra. Posso? Volevamo sapere se sai cosa è successo.